Tempo di sport con Carlo Genta. Una grande giornata della nostra difesa, con molti buoni spunti all'attacco, con diverse combinazioni non andate a segno solo per un soffio. Questo è il nocciolo e la sostanza di questa gara bella, combattuta strenuamente da ambo le parti, tesa con l'urlo, col boato dei 140.000 presenti qui stasera all'Hampden Park di Glasgow. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1 insieme con il Brasile. È tre volte campione del mondo. Roberto Baggio batterà il nostro ultimo tiro dal dischetto. Se segnerà, ci sarà la speranza che i brasiliani sbaglino poi l'ultimo loro tiro dagli 11 metri. Ecco Roberto. Alto! Il campionato del mondo è finito. Lo vince il Brasile ai calci di rigore. Grosso contro Barthez. Il batticuore sale. Ed è gol! È finita! È finita! È finita! Bravi. È finita! Il cielo è azzurro sopra Berlino! E dopo Carosio, Martellini, Bruno Pizzul, la coppia Bizzotto Cerqueti qui non rappresentata, Marco Civoli. Dopo tutti questi, la nazionale italiana ha una nuova voce che, e qui festeggiano tutti quelli che fanno un mestiere come il mio, è una voce da radio. Questa voce. Bruno Gentili, buongiorno. Buon pomeriggio a voi, grazie. Buon pomeriggio Bruno. Bruno Gentili che debutterà il 10 agosto insieme a Cesare Prandelli, volendo anche a Baggio, Rivera e Sacchi nella nuova veste. D'altra parte Bruno, dopo un mondiale così non poteva che iniziare la stagione dei debutti. Sì, un rinnovamento totale, assolutamente. Devo dire però che i volti, i personaggi forse non bastano da soli a rianimare appunto un calcio italiano che secondo me è proprio alla deriva, ecco, non ha più risorse, non ha più talenti veri. Ci vogliono a questo punto i fatti, ci vuole soprattutto molto coraggio, i colpi d'immagine come possono essere quelli appunto ai quali tu facevi riferimento, vale a dire Rivera, Baggio, ecco, questi colpi d'immagine lasciano un po' il tempo che trovano, sì. Ci vuole una nuova organizzazione, ci vogliono nuovi modelli, ci vorrebbe anche un nuovo format di campionato, io lo ridurrei a 16 squadre, sì. E poi ecco, parlando di coraggio, io per esempio per 3 anni avrei fissato una norma, una regola, almeno 3 giovani di 18 anni, 18-19 anni per squadra. Sì. Noi abbiamo purtroppo questa cattiva abitudine che è quella di far esordire i giovani quando sono anziani, questo non lo dico io ma l'ha detto Van Gaal, sì, che è un osservatore esterno molto attento al calcio in tutti i settori della vita, mi pare Bruno, non solo nel calcio. Sì, assolutamente d'accordo, anche alla radio. Senti Bruno, come domanda banale, ma come vorresti la tua telecronaca azzurra? Poi torniamo a parlare di giovani, ma, perché è un argomento che mi interessa. Ma guarda, non lo so, io improvviserò, credo che la mia telecronaca, il mio stile nascerà al momento, nascerà sul campo. Vorrei andare, almeno queste sono le mie intenzioni, vorrei andare un po' contro tendenza perché è un rischio che mi prendo, lo so benissimo, ma mi piace anche rischiare. Ecco, vorrei dare la parola alle immagini. E oggi le immagini secondo me dicono tutto. Ho sempre sostenuto che il vero telecronista oggigiorno è il regista, perché i dettagli vengono curati, sezionati nei minimi particolari, il telespettatore è super appagato, la partita è vista e rivista sotto 1000 angolazioni, sì. Quindi insomma, se possibile vorrei avvicinarmi, ma non troppo perché erano altri tempi, allo stile di Giuseppe Albertini, che è stato un grande telecronista italiano della TV svizzera negli anni 70, esordì tra l'altro con Roberto Bettega, sì, accanto come secondo nell'85 e fece questa prima telecronaca a 2 voci. Lui era molto sobrio ed essenziale e lasciava grande spazio alle immagini. Poi ovviamente i tempi sono cambiati, adesso insomma la telecronaca richiede un maggior impegno, però possibilmente vorrei far parlare l'Italia, ecco, se parlasse l'Italia sul campo buon segnale, significherebbe anche che il telecronista non serve, insomma. No, il telecronista serve sempre, però non sarebbe male se cominciasse a parlare dell'Italia in campo dopo quello che abbiamo visto ai mondiali. Appunto, senti, intraprendente, oggi leggevo questa intervista sul Corriere della Sera a Gianni Rivera, a proposito di Rivera, dice: Baggio e Sacchi non faremo le figurine, questo lo vedremo con i fatti, io i miei dubbi ce li ho e me li tengo. A domanda: il calcio è ostaggio delle TV, a suo giudizio? Risposta: la TV è stata molto importante, ha avvicinato tanta gente, ma ora si sta esagerando. Non si può svilire un prodotto perché le TV pagano, non si può giocare alle 21 con meno 6 gradi. Si è concesso alle TV di determinare il calendario, siamo sull'orlo del burrone, bisogna fare un passo indietro prima che si faccia l'ultimo in avanti. Sì, ha detto tutto praticamente, condivido in pieno, ormai comanda la televisione, siamo schiavi della televisione, partite spalmate lungo tutto l'arco della settimana, adesso giocheremo anche la domenica alle 12.30, 12.15, quindi insomma mi sembra che si stia un po' esagerando, anche perché non c'è più quel gusto che c'era una volta, la vigilia non si vive più. Sì. Io oggi stesso, che pure sono un addetto ai lavori, faccio confusione quando devo stilare il calendario, devo stilare la classifica, devo pensare alla classifica, perché devi aspettare addirittura il lunedì certo, per avere la classifica completa. Cioè il sabato ce n'è una, la domenica ce n'è un'altra, la domenica sera un'altra ancora e poi arriva il lunedì. Cioè è pazzesco, prima di poter emettere un giudizio devi aspettare 3 giorni, sì, non hai la classifica completa. Questa si perde un po' di vista, insomma, quei canoni ortodossi che appartengono al calcio, la puntualità del calcio, la contemporaneità. La ritualità del calcio. Bravo, la ritualità, assolutamente. Io vorrei vivere, insomma, la vigilia come si viveva una volta, lo so, forse sono un po' anacronista. È un'unica grande vigilia, no, ma però dobbiamo dire anche che guardando il mercato sportivo in tutti i paesi, dall'Inghilterra agli Stati Uniti, insomma, da noi ci sono già scatenate le polemiche perché viene violata la sacralità del pranzo domenicale o della messa, come saprai, negli Stati Uniti il giorno di Natale, oggi sono usciti i calendari NBA, programmano le partite più di richiamo, di maggiore richiamo. Senti, volevo da te invece un giudizio su questa, appunto, su Baggio Rivera, Arrigo Sacchi, la chiamiamo operazione simpatia, operazione demagogia, o può nascere qualcosa di reale da questa operazione? Ma potrebbe nascere se ci fosse una struttura portante. Sono tre personaggi e tre personalità completamente differenti tra di loro. Rivera ormai è un politico, quindi avrà bisogno dell'appoggio pieno della federazione per poter attuare il suo programma. Lui è legato al settore giovanile scolastico, settore estremamente delicato. Baggio potrebbe essere un grande supervisore di talenti, nessuno ha l'occhio come lo ha lui, potrebbe insomma cogliere quegli aspetti importanti per poter far crescere un giocatore. E poi Rivera, Baggio, e mi dicevi l'altro, Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, vabbè. Arrigo operazioni Sacchi. Simpatia con Arrigo Sacchi magari stona un po', però sì. No, vabbè, però sai, ha grande esperienza, conosce il club Italia, anche se lui non è stato mai un allenatore, non ha potuto mai fare l'allenatore in nazionale, insomma, sì, perché non riesce ad allenare in nazionale, non hai spazio a sufficienza. Sì, sì, però sì, è sì, uno che conosce l'ambiente, è una persona molto intraprendente, ecco, lui sì, è uno coraggioso, è uno che ha sempre avuto un occhio vigile nei confronti dei giovani. Riescano a trovare una certa uniformità di giudizio, perché poi insomma bisogna viaggiare verso un'unica direzione e il problema è questo, insomma, alle spalle devono avere anche una federazione molto forte, ecco, vediamo. Io stavo leggendo sms a te indirizzati, tipo questo: finalmente uno della radio, forza Gentili, facci sentire la vera lingua italiana, non questa serie di neologismi inventati, sono proprio contento, scrive un ascoltatore. Un altro, Mario da Milano: una sola parola per la nomina di Bruno Gentile come nuova voce di Azzurri, finalmente. Un sacco di amici hai già, eh? Meno male, hai visto. Ma non avevo grossissimi dubbi. No, io sicuramente non dirò mai stop and go, oppure palla viva, neologismi a me non appartengono, oppure campo per destinazione. Io no, cercherò di parlare il linguaggio dei campi di terza categoria, il calcio che si gioca sui campetti, insomma, ecco. Quello che conosciamo meglio. È semplice, ma sì. Bruno continua a farci sognare, io vado allo stadio oppure calcio alla radio, scrive un altro ascoltatore. Bruno Gentili, ti chiedo ancora una cosa, a me piace, l'ho dichiarato molte volte, l'apertura mentale di Prandelli, chi è titolare nella propria squadra, chi è leggibile, documenti validi, regolari, non comprati alla mano, verrà preso in considerazione oriundi anche gli oriundi che tanto hanno fatto discutere e chiacchierare. Sì, il mondo ormai è questo, la società in cui viviamo è questa, è multietnica. Vediamo anche l'esempio della Germania. Sì. L'ultima partita giocata dalla Germania ai mondiali c'erano addirittura 7/11 della formazione, erano oriundi, insomma, tutti giovani oriundi molto promettenti. È una realtà che abbiamo di fronte, la dobbiamo assolutamente accettare. Prandelli, ha detto bene, ha una grande apertura. Innanzitutto una brava persona, il che non guasta, visto come siamo caduti in basso negli ultimi tempi. Ecco, per lui secondo me sarà più duro, paradossalmente, l'impatto con i giornalisti che non quello con il Club Italia. In nazionale raramente un commissario tecnico è stato difeso da una parte della stampa e dall'altra parte attaccato. Io seguo l'Italia dall'82 e quindi conosco assai bene l'ambiente. In nessun altro settore giornalistico, secondo me, i colleghi, tutti, indistintamente, sono così compatti, così forti, così uniti nella critica. E c'è un motivo. L'Italia è di tutti, non è un club. Sì, è il Club Italia, ma è una squadra di tutti, e quel tutti sono i tifosi. E la stampa ovviamente ne è portavoce. Certo, certamente. Seconda voce, voce commento tecnico, Bruno. Mi chiedono molti ascoltatori, già deciso? Avete già deciso o ancora no? Non lo decido io. Mi hanno interpellato, a me vanno bene tutti. L'importante è parlarsi prima, disciplinare in qualche modo, conciliare gli interventi della cosiddetta spalla, ruolo che io ho rivestito per tanti anni con Ameri e Ciotti, quindi lo conosco molto bene. Ma potrebbe essere di nuovo Bagni, ma potrebbe essere anche Dossena o magari una novità. Questo lo deciderà il direttore. Questo scopriremo dal 10 agosto in poi. Io ti... da, dopo il 10 agosto, perché sì, la prima la farò con Marco Scivoli, ci sarà questo passaggio di commovente passaggio di consegne. E quindi avrà accanto Marco Scivoli per un ultimo saluto, così un congedo, perché intraprende una nuova carriera, quella di caporedattore a Milano. E quindi niente, saremo insieme per questo esordio, sia mio, soprattutto di Prandelli. Grazie Bruno, buon lavoro. Grazie a voi, a te. Grazie davvero a Bruno Gentili. Adesso, per inciso, a me piace moltissimo, non voglio essere di parte, però sono molto contento di questa scelta. Di questa scelta della RAI non sono di parte, perché lavoro alla radio a questo microfono, come per tanti anni ha fatto alla RAI Bruno Gentili, con infinita perizia più di me. Valerio Palermo, Simone da Lecco sono i primi ascoltatori in linea. 800 24 00 24 è il numero verde. Non ho ancora salutato Laura Vanossi in redazione, Fabio Cantadone in regia, lo faccio ora. Vi do anche due notizie. Una di freschissima, una di mercato, perché il Genoa ha scatenato, ha preso anche Rafinha, terzino dello brasiliano dello Schalke 04, che per molte edizioni del mercato è stato accostato inutilmente alla Juventus, utilmente perché poi non ci è andato naturalmente. E una notizia invece pessima per i tifosi della Fiorentina, perché Jovetic, che si è fatto male sul serio, crociato anteriore destro, fuori 6-7 mesi. Jovetic, talentino viola. Valerio da Palermo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo intervenire a proposito della nazionale, diciamo, del discorso della nazionale. Sì. Dica. Più che altro penso che ci voglia un quello che bisogna fare è un lavoro in prospettiva, diciamo, soprattutto puntando sui giovani, non soltanto come posso dire a livello di scelte di Prandelli, ma proprio a livello di tutto il movimento, partire dal settore giovanile, quello scolastico, più coraggio, insomma, ci vuole un lavoro così in prospettiva e soprattutto ci vorrà anche pazienza, perché comunque sono di quelle cose che potranno portare risultati, però soltanto con il tempo. Sì, però Valerio, il suo è anche pensiero di molti, anche pensiero di Rivera, di Baggio, che hanno parlato e stanno parlando in questi giorni. È tutto giusto, tutto condivisibile, però insomma, innanzitutto i giovani dovrebbero... Prandelli ha detto, chiamerò chi gioca titolare o comunque chi ha un ruolo importante nella sua squadra. Se sta seduto in panchina, difficile chiamare un giocatore. I giovani giocano quelli bravi, che siano i club, ovviamente non sono enti di beneficenza, quindi fanno giocare giocatori e prendono giocatori funzionali alle loro esigenze senza guardare troppo ai passaporti. Le regole attualmente sono queste. vale la legge del mercato, per avere spazio in campo bisogna guadagnarselo, e quindi nel calcio come nel basket chi vuole emergere, italiano, straniero, tra i giovani, deve darsi una svegliata. Nel nostro paese è particolarmente difficile perché la mentalità, ne parlavamo prima con Bruno Gentili, è quella che conosciamo, dunque è molto difficile emergere non solo nello sport ma in ogni settore della vita se sei giovane, prima di avere sufficiente credito, e dunque è tutto giusto, ma è necessario introdurre, secondo me, gli opportuni distinguo. Simone da Lecco, buongiorno. Pronto, buongiorno dottor Genta, buongiorno. Grazie di avermi richiamato. Grazie a lei. Io volevo fare un discorso più in generale, partendo dal fatto che la trasmissione si chiama Tempo di Sport. Sì. È più di un anno che si sente ogni tanto il solito refrain, in quanto siamo scarsi in tanti tipi di sport, adesso l'ultima era la Spagna, di quanto è diventata forte in tutti i tipi di sport. Ecco, però io oggi sono riuscito a prendere la linea, e vabbè, oggi abbiamo vinto una medaglia d'argento nel nuoto. Ma durante il corso dell'anno ogni tanto tentavo di chiamare, insomma, 2 giorni fa siamo diventati campioni d'Europa nel baseball, sport minori per carità, però nella pallavolo femminile, nel nuoto, nella scherma, in tanti tipi di sport. Siamo bravi, no Simone, lei fa un discorso molto interessante, siamo bravi in molti sport, no? Siamo competitivi in molti sport, lei ha ragione, è questo che vuol dire? Poi ci sono degli sport dove proprio storicamente, cioè ad esempio la scherma, abbiamo sempre spopolato, è un discorso che va sempre avanti. In alcuni sport abbiamo il campione e poi quando termina il campione. Però ecco, come si citano tutte le nostre sconfitte, gradirei che magari al lunedì, quando abbiamo vinto qualcosa, si citasse la vittoria, non so, mi viene in mente Morandi, diventato campione d'Europa agli anelli, cioè tantissime vittorie abbiamo fatto durante l'anno. Poi lo so anch'io che la Spagna è diventata campione del mondo nel calcio, e allora no, ma sa, il calcio spagnolo. Ma più che altro che colpisce e che è ormai un dato di fatto. Insomma, lei ha ragione, però questa è questo di citare le vittorie, possiamo anche farlo. E lo facciamo, ma in sede di cronaca, vede, se la vittoria è della domenica, il lunedì si approfondiscono i discorsi, sarebbe bello magari anche approfondire i discorsi sulla vittoria della nazionale di baseball, però non so in quanti di voi possono accettare un contraddittorio, possono accettare, apprezzare una discussione su questo punto, perché queste sono le leggi, no? Detto questo, lei ha ragione nel sottolineare come siamo bravi in molti sport, siamo competitivi in tanti sport molto diversi, di terra e di mare e di montagna, come forse nessun altro paese trasversalmente. Ciò che colpisce veramente negli ultimi anni è la crisi dei nostri sport di squadra, perché è un dato che rimbalza attraverso tutti gli ultimi grandi eventi che abbiamo vissuto, tra mondiali ed europei di calcio, basket, eccetera, olimpiadi e così via. Ciò che colpisce anche in sport di squadra dove tradizionalmente eravamo all'avanguardia, come nella pallavolo maschile soprattutto, adesso stiamo vivendo un periodo di profonda crisi. Questo è un dato reale. Poi per il resto dei talenti emergono, per fortuna, grazie a Dio, emergono talenti italiani, emergono in molti sport, ad esempio adesso tennis, sport in cui non siamo mai stati fortissimi, ora abbiamo una squadra di Fed Cup che è pressoché imbattibile. Gian Battista, Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io poi telefonavo in merito al campionato di calcio e le partite trasmesse alle 12:30. Sì. Allora, faccio una bella provocazione, anzi lo faccio proprio. Dica. Do la visita a Sky. Sì. Se mi trasmettono le partite alle 12:30. Ah sì. Perché già devo litigare con la moglie per le partite normali. Se poi anche le 12:30. Se poi si mette a litigare anche la domenica, non si vive più, non si cambia più, o cambia moglie o disdice Sky. È questo? Scusa? O cambia moglie o disdice Sky. Cambiare moglie è possibile. E allora è meglio disdire Sky. Esatto. No, però guardi, insomma, è chiaro che le novità fanno fatica ad affermarsi, no Gian Battista. Io però mi limito a notare, insomma, non sono così drastico nei confronti di questa programmazione bizzarra. Ad esempio, sa che si fa un gran parlare delle vacanze di Natale, no? Che i giocatori vogliono a tutti i costi questa sosta natalizia molto lunga. si gioca l'Epifania, non si gioca l'Epifania, si torna in campo a gennaio inoltrato. Io mi limito a notare che in altri paesi, ad esempio, dicevo prima, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, nelle vacanze, insomma, ad esempio nel periodo natalizio si moltiplicano le partite e sono partite di cartello. È appena uscito il calendario NBA, poi ne parliamo anche. Il giorno di Natale si giocano 5 gare, una alle 18 l'italiana, giusto per servircene in prime time, i Knicks di Gallinari contro Chicago. Poi c'è Orlando-Boston e soprattutto la sfida del giorno di Natale, ore 23 italiane, Lakers-Miami, che è niente meno che il preview di quella che sarà probabilmente la prossima finale NBA. Io su tutte queste vacanze sono un po' scettico e un po' perplesso. Quanto alla partita a mezzogiorno, anche lì, nonostante gli strali di Radio Vaticana, ad esempio, non ci trovo nulla di particolarmente bizzarro. Se è chiaro che la partita viene collocata dove si ritiene ci possa essere, al di là dei gusti personali, un pubblico apprezzabile, e a me sembra un esperimento interessante. Io ad esempio, personalmente, sono abbastanza stufo dei posticipi della domenica sera alle 20:30, che ora diventano 20:45, perché la domenica a quell'ora lì, sinceramente, dopo 2 giorni uno non ne ha più tanta voglia, ma sono soltanto gusti personali. Enzo da Como, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Dica. Dopo la catastrofe mondiale di quest'anno, tutti dicono che in Italia abbiamo vivai per i giovani, bisogna investire sulle scuole, queste cose qua. No, però se non per andare controcorrente, però mi sembra, da profano quale io sono, e, insomma, in giro ogni comune, io abito in Brianza, per dire, ogni comune c'ha la sua scuola calcio, con tanti bambini che vanno, e sono tutte scuole che sono poi affiliate ai grandi club, eccetera. Quindi voglio dire, ogni comune c'è la sua scuola calcio. Quanti comuni ci sono in Italia? Quante scuole ci sono in Italia? E a quante scuole ci sono, appunto, diciamo per bambini? Sì, sono tante. Penso che il vivaio ci sia, e come, penso, no? Beh, ci sono per fortuna tanti bambini che fanno sport e che giocano a pallone. Io continuo a pensare che investire sul settore giovanile sia un'espressione molto abusata. Investire sul settore giovanile, secondo me, vuole ragionevolmente dire mettere a disposizione di chi vuole fare sport strutture adeguate, e noi non siamo esattamente un paese all'avanguardia dal punto di vista delle strutture, e poi mettere a disposizione degli istruttori di primo livello. E anche da questo punto di vista avrei delle perplessità su chi anche in grandi club viene, anche per questioni di risparmio, questioni economiche, viene deputato alla cura del settore giovanile, dei giovani, e alla guida di queste squadre giovanili. Quindi l'ascoltatore torna a parlare tra poco, 800 24 00 24, resta comunque il numero verde. Sono iniziati anche bene gli europei di nuoto con Valerio Cleri, che ha vinto l'argento, l'avete sentito prima nel genere, l'abbiamo appena detto. Iniziano gli europei di nuoto e chissà che negli angoli più nascosti di Budapest, sede di questi europei, possa nascere anche qualche nuova storia piccante. Il nuoto in questi ultimi anni è una fonte inesauribile di personaggi, forse anche più del calcio. Vorrei parlare di questo con una giornalista di punta, anzi goleador di Novella 2000, Marianna Aprile. Buon pomeriggio, Marianna. Buon pomeriggio a tutti. Senti, questo sport con così tanti personaggi, non me lo sarei mai aspettato. Nuoto tra anelli che volano, storiacce, cominciato tutto forse con Rosolino, no? Con Roberta Capua, poi Lormana 2, questa storia di amanti e tradimenti, e poi Pellegrini e Filippi, che sono onestamente, oltre le due splendide ragazze, anche due personaggi veri. Esatto, ma la colpa o il merito, non so come definirlo, ai posti di lauda sentenza della televisione, come sempre, perché a un certo punto, tra reality e trasmissioni di punta dei vari canali televisivi, non sapendo più dove andare a pescare, probabilmente si è pescato anche in piscina, e quindi da Magnini, inviato dell'Isola, Rosolino ballando con le stelle, poi lì vabbè c'è stata anche la fortuna che li ha baciati, perché è nata questa splendida e lunghissima storia d'amore, lunghissima per i tempi televisivi ovviamente, sì. Con la Natalia Titova, insomma i giocatori sono diventati sempre più personaggi televisivi, che è stata anche la loro sfortuna, se vogliamo. Sì. Sì. Perché hanno mutuato dalle esigenze televisive la necessità di un certo buonismo. Sono tutti molto più mosci adesso. Vero, sono brava, sono moscissimi, non ci divertono. Non ci divertono, ci mancano un po' gli eroi maledetti. Ma questo vale anche per i calciatori, secondo me. Ma . Per i calciatori poi la differenza è ancora più evidente, cioè nel senso per... ormai arrivano solo foto di Totti e Blasi con i figli, giocano, sì. Ridono, scherzano, litigano, li educano. Buffon con la Seredova, idem. Cioè, ormai se non fosse per la Marica Fruscio che insidia il rapporto di Inzaghi e di Alessia Ventura, cioè non ci sarebbe, o per Balotelli, cioè, sì. Adesso che ce lo tolgono e lo mandano in Inghilterra, noi finiamo veramente di lavorare su un filone che prometteva benissimo. Sì, ma tira più lo sport o la politica attualmente? Cosa interessa? Politica. Ma sono molto più viziosi i politici degli sportivi. Sono molto più dannati loro degli sportivi. Li vorremmo. Sono diventati tutti, sono ammalati di famiglite, come la chiamiamo, sì. Noi ormai qui. Cioè, sono tutti, anche se non ce li hanno, parlano dei figli, anche le nuotatrici. Ma mai visto questa voglia di maternità delle nostre stelle all'Olimpiade? 2012 per un figlio? No, cioè, nel senso, ma quando mai un giovane di quell'età, con una certa disponibilità economica, con la possibilità di fare tutto quello che vuole, direbbe una frase del genere? Cioè ormai sono diventati tutti più realisti quanto a buonismo familiare, insomma. Cioè, ridateci Balotelli, come ridateci, perché adesso ce lo levano, mandano in Inghilterra, dove peraltro lì sono bravi, perché avrei visto nelle ultime ore, tra Rooney che da Di Matto fa pipì in strada e quell'altro che si schianta con in macchina, le ragazze condivise, l'unica roba che non mi fa impazzire è Lothar Matthäus. Ma quattro mogli sono tante, Quattro sono tante, però se non altro è un modo, insomma, un modo tradizionale anche di far parlare di sé. Cioè Messi si mette a fare cover degli Oasis, capisci? per far parlare di sé e per fare, diciamo, quello matto della comitiva, no? Cioè, sì. È veramente tristissimo. Arridateci Maradona, o se non è possibile Balotelli di ritorno. No, ma anche per esempio Cristiano Ronaldo, no? Cioè, fino a un paio d'anni fa, inviata in Costa Smeralda sulle tracce degli svippati, come sì. Li chiama D'Agostino, sì. C'era questo simpatico clan al seguito di Cristiano Ronaldo con Nereida, cioè una cosa che le ragazze di Ostia col Calippo in confronto erano, diciamo, Carlà e Letizia Ortiz. C'è una cosa veramente su cui c'era da parlare e da ridacchiare. Adesso questo mi diventa papà. Cioè si compra il silenzio della mamma e prova pure a continuare a fare la vita da singola, andandosene in vacanza con Irina eccetera, ma mamma Dolores lo richiama all'ordine e lui che fa torna al Galve per fare il babbo e il figlio. Con le orecchie basse, ma basta. Sì, bassissime. Basta. Bassissime. C'è un'altra cosa che mi dà fastidio, gli sportivi che dicono, che si lamentano, ma di noi non si parla mai. Ma no, gli sportivi, esattamente come i politici, i personaggi TV, si lamentano che di loro non si parla mai, ma poi quando ne parli per cose che loro vorrebbero invece sì. Tenere nascoste, si lamentano perché parli di loro, cioè ci sta, è il gioco. Senti Marianna, andrei avanti a parlare con te tutto il pomeriggio, tanto che un giorno mi piacerebbe averti ospite qui, così ne parliamo con calma anche con gli ascoltatori. Ma volevo chiederti ancora questo, cosa ne pensi tu delle telecamere negli spogliatoi? Altra novità che sospetto abbastanza ma di facciata. Ma se fossero vere, nel senso, se potessero alimentare una qualche o soddisfare una qualche prurigine, insomma, potremmo anche vederle bene. Il sospetto che si ha è che, insomma, quello che vedremo sarà una versione edulcorata e da fiction dello spogliatoio. Brava. L'ennesimo reality. Esatto. Ma non sono almeno passati... almeno lo spogliatoio lasciamoglielo per divertirsi a sti ragazzi. Ma poi i reality non sono neanche più di moda, dai. O no? Dipende, insomma, lo spogliatoio di uno stadio, se fosse vero, potrebbe essere, insomma, un buon modo per fare audience. Potrebbe essere carino, basta che comincino a comportarsi in maniera un po' più vivace. Un po' più vivace. Altrimenti diventa casa Vianello. Marianna, grazie. Grazie a voi. Abbraccio, bravissimo. Marianna Aprile, adesso io invece torno ai miei amici ascoltatori, andando subito a Bari da Sebastiano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, vorrei portare i miei appunti per quanto riguarda gli stranieri giovani. Cioè, qualche mese fa si è enfatizzato in una maniera grandioso, perché è stata una grande vittoria quella dell'Inter in Champions, sì, no? E, però poi un'osservazione: non c'era un giocatore italiano in campo almeno all'inizio. E allora, il bello o il brutto è che adesso le squadre primavera, di parecchie squadre primavera, sono zeppe di ragazzi stranieri. Sì. Abbiamo visto Merkel, per esempio, giocare con il Milan, così, l'Inter ne ha tantissimi. Quindi sì, è abbastanza difficile che poi vengano fuori venti per riportare un po' in alto il calcio italiano. Ma l'Inter, allora, Sebastiano, stiamo parlando sempre di club professionistici, di sport professionistico e dunque di club come l'Inter che investono tantissimo sul settore giovanile, perché Balotelli mi risulta che sia italiano, Santon è pure italiano. Se poi l'Inter va a prendere talenti in altre parti del mondo, come fanno tutti, non vedo cosa ci sia di male. Secondo me questo è un grande errore che facciamo, quello di ma che facciamo a tutti i livelli, di tentare di proteggere il più possibile i nostri ragazzi. I nostri ragazzi, se hanno talento e soprattutto hanno la voglia di emergere, la voglia che possono avere ragazzi che vengono dall'Africa piuttosto che ragazzi che vengono dall'est europeo, da altri angoli del mondo, se hanno la stessa voglia di emergere di questi, e devono averla, se hanno lo stesso talento di questi, vedrete che giocheranno. La mia impressione è che si perdano un po' troppo facilmente per strada alla ricerca dei primi soldi facili, che si accontentino, insomma, secondo me ci vorrebbe un po' più di mentalità da parte dei giocatori italiani, non solo nel calcio, perché insomma stiamo parlando comunque di sport professionistici, dunque un club professionistico vuole vincere, e se per vincere deve prendere a prezzi di mercato un giocatore utile, ragiona in questi termini, non in termini di passaporto, di cittadinanza di questo giocatore. Questo discorso vale anche nel basket, come sa benissimo un'altra nostra ospite. Curioso che Radio Vaticana non se la sia presa con il basket, con quei mangiapreti del basket e con quegli anticlericali dei miei amici di Sky che da anni raccontano le partite a mezzogiorno della domenica. Claudio Angiolini, diavolessa, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. La partita di mezzogiorno, come mai non se la sono presa con voi? Questi di Radio Vaticana, da anni insomma andate ad invadere il mezzogiorno domenicale, con buoni risultati peraltro. Domenicale, però intanto ci ha copiato il calcio, hai visto? Ho visto. E adesso cosa succede? Ma adesso io sono lontana da Sky, non so esattamente cosa succeda. In teoria noi dovremmo continuare con la nostra partita di mezzogiorno, a mezzogiorno e mezzo c'è il calcio. Sì. Ma senti, ma tu invece personalmente come la vedi con le partite, ad esempio nella sosta natalizia? Io sto leggendo il calendario appena uscito dell'NBA, che ovviamente a Natale propone 5 partite, una più bella dell'altra. Sfida di cartello non poteva che essere Lakers-Miami, che si gioca alle 23 italiane, mentre alle 18 ci danno Knicks di Gallinari contro Chicago. Insomma, io sono dell'idea che lo sport, che il prodotto sport, anche se è brutto chiamarlo prodotto, definirlo prodotto, però si debba dare al pubblico quando il pubblico lo può richiedere, che sia mezzogiorno della domenica o che sia giorno di Natale. Sono assolutamente d'accordo, Carlo, guarda, perché noi abbiamo fatto una partita di Natale 2 anni fa e avevamo avuto buonissimi risultati. La partita non era proprio di cartello, perché era Bologna-Ferrara, con tutto il rispetto per Ferrara che era neopromossa, però abbiamo avuto delle difficoltà, perché c'era la mentalità un po', credo, italiana anche di giocatori non possono festeggiare il Natale, per cui scegliamo 2 squadre che siano vicine. Io sono dell'idea che bisognerebbe giocare a Natale, il giorno di San Stefano, eccetera, eccetera, insomma. Sì, perché abbiamo bisogno. Sì, no, ma perché in quei giorni la gente, insomma, è più propensa a guardare lo sport, anche se c'è chi, un ascoltatore via SMS, che mi dà dell'ateo interista, non sono vere entrambe le cose, nessuna delle due cose è vera. Claudio, vabbè che è il 4 agosto e sei in riva al mare, ma parlare di ultima spiaggia già per la partita in Lettonia mi sembra tanto. Sì, anche a me sembra tanto. Israele sapevamo che era una squadra forte, adesso non voglio cercare giustificazioni, dico, sono sincera, io la partita non l'ho vista. Sì. Però certo, bisogna andare in Lettonia e vincere, perché poi il problema è fare la corsa su Israele e Montenegro, insomma. Sì. Cui... Sì, Sì, tra l'altro Montenegro che ha il miglior centro che c'è in Europa, che ha un playmaker naturalizzato fortissimo, eccetera eccetera. Tu come la vedi questa storia invece dei passaporti facili? Perché adesso in paesi come Macedonia, Lettonia stessa, eccetera, li vendono a basso prezzo. Beh, mi sembra una grande presa in giro e credo che siano tutti d'accordo, insomma. Poi è chiaro che se funziona così, non è che una squadra dice ok, allora io non voglio il giocatore perché non è giusto. Il giocatore che ha la possibilità di avere il passaporto macedone e chiaramente ne approfitta. Però sì, insomma, in generale mi sembra... Non so cosa ne pensi tu o gli ascoltatori. Ma io la penso allo stesso modo, esattamente come penso che, come fa Prandelli, se un giocatore è eleggibile non vedo perché non possa essere chiamato anche nella nazionale di basket. Sappiamo bene che sono, e che hanno rifiutato la convocazione, giocatori che sarebbero eleggibili per questa nazionale, tra l'altro sono giocatori di Pianigiani, no? Da Stonruca a Eze. Certo. Tu li avresti chiamati questi? Ma guarda, di Stonruk si parlava anche agli europei in Spagna, è un giocatore in un ruolo così importante che insomma io sì, l'avrei preso, ma io credo che anche Stonruk non sia stato proprio d'accordissimo, se non sbaglio. Sì, no, ma è così, ha rifiutato la convocazione già con Recalcati. Per chiudere, Claudia, effetto Pianigiani non possiamo dire sia già finito, però certamente Simone così tante partite consecutive non le perdeva da anni, forse dal campionato juniores o forse ancora da prima. No, è vero, però sai cosa penso? Che forse ci siamo, allora noi abbiamo bisogno di risultati subito, bisogna dare un po' di tempo alla nazionale, non abbiamo tempo purtroppo, però insomma mi sembra che ci sia tantissima buona volontà, forse ci siamo mossi un po' tardi, abbiamo toccato il fondo e adesso non possiamo pretendere di risalire in così poco tempo. Mi auguro che però, insomma, appena è cominciata la sì, qualificazione, mi auguro che vada a buon fine. Io mi auguro che da una parte o dall'altra si cominci a risalire, cosa che contro Israele non è successa. Grazie Claudia, a presto. Grazie a voi, l'abbraccio. A presto, grazie. Grazie a te Claudia Angiolini. C'è chi scrive un sacco di messaggi, alcuni carini, altri meno. C'è chi scrive ad esempio: complimenti, grande argomento per una trasmissione sportiva, riferito all'intervento di prima, che a me è piaciuto molto, mi ha divertito molto. Scelga pure lei l'aggettivo tra buffonesco e cialtronesco, Biscardi le fa un baffo, mi scrive amico Danilo da Romanengo Cremona. Se volete vi faccio sentire Cavani che sta dicendo delle banalità in conferenza stampa, se preferite. Ma durato un po' di più per cercare di esprimermi al massimo tutte quelle esperienze che ho provato in questo Napoli. Se volete vi faccio sentire un sacco di banalità, è pieno, basta sentire una conferenza stampa ed è la fiera dell'ovvio. Se preferite questi argomenti, non lo so, confrontiamoci, io non sono così d'accordo. Poi voglio anche sorriderci sopra, insomma, sullo sport, perché dobbiamo essere sempre così seri quando parliamo di pallone? Mamma mia! Marco da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie. A lei. No, io volevo, sono concorde con lei col fatto che i giovani italiani non è che li rinchiudono nelle galere, ci sono, però non è colpa... non è colpa degli stranieri se... Bravissimo, se facciamo un esempio anche a livello lavorativo, ci sono giovani che non fanno più determinati lavori perché hanno paura di rompersi le unghie e allora chiamano altre persone. Bravissimo Marco, è quello che penso anch'io, e questo vale per quei lavori in cui ci si spacca le unghie come per i lavori in cui non ci si spacca le unghie, magari ci si diverte anche come il calcio. Però sa, qui basta giocare un anno nella primavera dell'Inter, poi ti chiama la squadra di serie C2, come si chiama adesso, come si chiama questi campionati adesso, Lega Pro, queste cose, basta, insomma, ti chiama una squadra di quinta serie, ti dà qualche soldo e allora tu sei arrivato, allora tu pensi alla macchina bella. Insomma, io vedo che non c'è tanta fame di diventare degli sportivi di alto livello tra i giovani italiani, spero di sbagliarmi. Poi è facile dire proteggiamoli, difendiamo il loro posto di lavoro dall'invasione dei barbari stranieri. No, diamo loro le strutture e gli istruttori adeguati e poi libera concorrenza. No, ecco, Marco. Mi permette un'ultima cosa, sì. Anche riguardo alla nazionale. Io sono uno di quelli che nel 2006 dice che l'Italia, a me l'IP non piace molto, premetto. Dice sì, che l'Italia ha vinto con un rigore inesistente con l'Australia. E con la Francia diciamo che abbiamo vinto, ma l'unica partita secondo me bella è stata con la Germania. E poi vorrei fare un applauso a Donadoni che è stato cacciato dalla Spagna, che non a caso ha vinto gli europei e i mondiali. Ecco, questo è stato mandato via solo perché non bucava lo schermo. E è stato quello che è andato più vicino ad eliminarla la Spagna nell'ultimo biennio, Roberto Donadoni. D'altra parte però Marco lei sa meglio di me che per vincere un grande torneo la fortuna ci vuole il rigore contro l'Australia, ci vuole il cammino che ha percorso l'Olanda, che è arrivata alla finale, e finale compresa non ha mai incantato, non ha mai giocato una grandissima partita, anche se ha eliminato il Brasile. Un mondiale così. Dario Treviglio, buongiorno. Buongiorno e grazie. Una semplicissima cosa, si lamentano sempre i nostri giocatori, ma negli altri stati giocano Natale, Pasqua, Santo Stefano, ultimo dell'anno, primo dell'anno, non fa problemi. Poi arrivano in primavera, vincono anche i campionati, vincono le coppe. Perché qua da noi sempre queste storie, sempre tirarsi? Non lo so. Tanto, mi perdoni. No, non lo so, io non ne so rispondere perché io mi associo alla sua domanda. Ecco, cioè, è ridicolo, cioè... Sembrano sempre signorine che, oddio, non farmi lavorare troppo, ma dammi tanto. Sì, ma ha ragione, mi associo alla sua domanda che lascio lì senza risposta. Quando ci risponderanno prenderemo atto e magari ribatteremo pure, no? Perché potrebbe esserci contraddittorio sul tema. C'è Ivan da Venezia che scrive, ma i camerieri, i medici turnisti non lavorano di Natale, Pasqua, l'ultimo dell'anno. Insomma, io parlo anche contro i miei interessi, perché così vado in vacanza a Natale, che me ne frega. Però, secondo me, in quei giorni, nei giorni delle festività si potrebbe anche fare uno sforzetto e dare lo sport alla gente che è divertimento, perché i teatri chiudono il giorno di Natale, nelle feste natalizie non credo proprio, anzi moltiplicano gli spettacoli. Io la vedo in questa maniera un po' controtendenza. Poi magari eliminiamo, giochiamo nelle feste di Natale, magari eliminiamo un paio di turni frasettimanali d'inverno a meno 14 che interessano un po' di meno. Adesso però è il momento, sta parlando sempre Cavani, ma basta, tanto so già cosa sta dicendo senza nemmeno sentirlo, lo so già e lo sapete anche voi cosa sta dicendo Cavani, domani lo leggerete sui giornali in un tripudio di titoli. Adesso però parliamo di motori. Eni vi presenta Sport e Motori. Parliamo di motori con un'altra intervista realizzata da Dario Ricci, perché il weekend che si avvicina è quello di Brno, è quello delle moto, del moto mondiale, del moto 2, eccetera, eccetera. E sarà anche il weekend in cui verrà annunciato il passaggio di Valentino Rossi alla Ducati. Da Valentino Rossi parte proprio questa chiacchierata di Dario Ricci con Fausto Gresini, uno dei boss del moto mondiale. Noi ci risentiamo, grazie a Laura Vanossi in redazione, a Fabio Cantone in regia, ci sentiamo domani alle 2. Credevo francamente che si pigliasse più tempo, invece ha avuto proprio la voglia di ritornare in pista di lottare, quindi ha dimostrato per l'ennesima volta di avere un grande carattere, una grande voglia di combattere, è un combattente, lo è sempre stato e lo ha dimostrato anche questa volta, quindi certamente credo che lui voglia cercare di trovare la sua forma migliore nel più breve tempo possibile. Sa benissimo che la sua arma migliore è correre, anche con le difficoltà. Chiaramente è stato molto bravo, ma non è ancora abbastanza in forma per essere competitivo e vincere, però ovviamente è importante quello che ha fatto, veramente molto molto importante. Beh, tutti contenti di rivedere Valentino Rossi in pista, forse gli unici scontenti sono quelli della Ducati, perché sappiamo tutti che Valentino ormai è a un passo dall'annuncio del matrimonio con la Rossa, vederlo correre sulla Yamaha col rischio di rifarsi male a Borgo Panigale deve aver creato qualche problemino. Beh, io credo che Valentino corre ed è giusto che lo faccia, quest'anno un contratto con Yamaha, lo deve rispettare fino in fondo, e la volontà di Valentino è finire bene Yamaha e finire comunque con l'allenamento giusto, con l'effettamento giusto, per poi andare in Ducati e cercare di dare il meglio di sé e anche quelle informazioni che servono a Ducati per migliorarsi eventualmente se necessario ancora. Quindi io credo che tutto quello che sta facendo Valentino lo sta facendo nel migliore dei modi, ovviamente calcolato, ovviamente con la volontà e determinazione del campione che vuole tornare. Quindi credo che a Borgo Panigale per questo non siano preoccupati, anzi devono essere felici, perché troveranno un pilota stimolato e con la volontà di mettersi in discussione, che a 31 anni comunque non è sempre così scontato. Parlavamo della corsa al titolo, al di là del caso Valentino, che pure certo non conta poco, forse quest'anno a Lorenzo sono mancati altri rivali credibili, no? Perché un po' sempre sulle montagne russe, Pedrosa, Stoner e il resto della compagnia. Direi che ha sfruttato molto bene il potenziale della sua moto, che è una moto oggi molto competitiva, forse la più completa nel suo complesso. Ha sfruttato bene questa, ha sfruttato bene anche il fatto che comunque le altre, vuoi per un motivo o per l'altro, le altre marche sono sempre state un po' più discontinue, meno competitive con la continuità del risultato. Un ultimo sguardo alla pattuglia italiana, Dovizioso e poi i suoi, perché corrono con la sua scuderia, Melandri e Simoncelli, in un moto mondiale che parla sempre più spagnolo, e lo vediamo dal dominio degli iberici in tutte e tre le classi. Sono questi i tre alfieri su cui puntare per il futuro? Per quanto riguarda Dovizioso, quest'anno si sta dimostrando un ottimo pilota con la moto ufficiale, sta facendo un bel campionato, anche se, ripeto, la sua esperienza non è ancora all'altezza degli altri piloti, credo che ancora un po' di esperienza non gli farebbe male. Per quanto riguarda i miei piloti, devo dire che dopo un avvio un po' difficile, il Simoncelli sta facendo bene il suo mestiere da, diciamo, debuttante. Partecipare e correre con la MotoGP senza poter testare molto è veramente molto difficile, essere competitivi con gli altri piloti che hanno un'esperienza importante. Questo ha penalizzato moltissimo Simoncelli. Per quanto riguarda Melandri, peccato che nel momento che stava iniziando veramente ad andare bene, un infortunio l'ha un po', diciamo, in un momento particolare della stagione, ha portato fuori da quelli che potevano essere gli obiettivi suoi e quindi quelli di crescita dopo 2 anni che non guidava la Honda. A tempo di sport.